Milva. Buonasera. Cara signora, io amo molto, ma molto i felini. Beh, che c'entra? Ah, già, la pantera. Di Goro, naturalmente. No, ma io intendo dire veramente che io amo i felini quando hanno una voce come la sua, una voce così... No, no, non cerchi, non cerchi. Tanto di lei non mi fido. Perché? E perché quando uno come lei canta ancora col zazu zazu e prima di andare a letto accende la candelina davanti alla fotografia di Armstrong. Io di una voce come la mia, cioè un suo parere sulla mia voce, non lo dica, tanto non mi fido davvero, guarda. Forse ha ragione, comunque noi stiamo scherzando, ma tutti sappiamo benissimo, cara signora, che la sua voce è passionale, calda, vibrante e melodica. Eh già. Ce la fa sentire? Certo. Grazie. Prego. Dice la verità, che servi oramai la vostra pietà, se niente mi resterà. Se uno di voi mi ha amato così, allora mi capirà, capirà, capirà, se mi ascolti amore. Nessuno lo capirà come me.